si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati con un occhio e un orecchio attaccati ai palazzi romani della politica, quello che succede, insomma, in corso il quinto scrutinio per il capo dello Stato, insomma, però lasciamolo andare in pensione Napolitano, dai, per favore, si parla di una richiesta di una ricandidatura, ma non è possibile, che non si trova un altro per fare il capo dello Stato, scommetto che si trova, magari non ora, però io penso che si trovi, no, un altro più giovane, lasciamolo alla meritata pensione. 800 24 00 24, vi aspettiamo in diretta per commentare le buone notizie, difficile di questi tempi trovarne con questo andazzo, però insomma noi come sempre ci proviamo. Prima di tutto, domani a Milano si corre una maratona, una corsa, non una maratona, un po' meno, per le vittime di Boston. Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che piove e che quindi sarà durissima per chi va. Si parte da Piazza Beccaria alle 15. Qualcuno ci ha scritto su Facebook quando abbiamo messo questa notizia: ma perché dimentichiamo le vittime del Texas? Giustissimo, corriamo anche per le vittime del Texas, però perché tutte le volte bisogna ricominciare con le cose fondamentali di base? C'è differenza tra un incidente e un attentato che fa molta più paura, naturalmente. Scuola, un paio di notizie. Questa viene da Bologna: mense a consumo, si paga solo se il bimbo mangia, perché sapete che spesso la mensa si paga a prescindere, anche se poi i bambini quel giorno a scuola non ci vanno, e questa è una cosa che naturalmente lascia un po' arrabbiare i genitori, no? Si risparmia qualcosa, giusto così. Magari altrove già era così, però insomma meglio tardi che mai. Sempre scuola, pensate come siamo messi se non si tagliano tutte quelle spese inutili, le consulenze, i costi della politica, cose che abbiamo detto mille volte. Si rischia questo. Savona, niente lezioni a scuola il sabato per risparmiare. È una proposta che è in campo, l'ha fatta l'assessore provinciale all'edilizia scolastica, e potrebbe scattare già a partire dall'anno prossimo, perché non sanno proprio più dove prenderli. In Lombardia, una notizia che riguarda l'immigrazione: la Lega al Pirellone adesso ci riprova, salgono da 5 a 15 gli anni di residenza necessari per gli immigrati per avere accesso a una serie di prestazioni. Si restringe da 10 a 5 la percentuale, il 5% di case popolari per gli immigrati, che però sono in Lombardia quasi il 12%. Che facciamo? Gli chiediamo di restringersi? Non lo so, 800 24 00 24. Voi che ne pensate? Sempre con la necessità di immigrati che lavorino nelle nostre aziende, che gli imprenditori ripetono ad ogni momento, c'è una sanatoria tra l'altro in corsa. Che ne pensate? 800 24 00 24. Adesso andiamo a cominciare con un caso di integrazione, questo sì, felice, possibile, a Milano. Da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Partiti con Battiato, perché martedì sera a Milano Battiato si esibirà in un concerto, non uno dei soliti mega concerti, lui fresco di dimissioni, tra l'altro l'assessore in Sicilia torna a fare il cantante. Si esibirà dove? E qua lasciamo Battiato e veniamo alla notizia. Si esibirà con l'Orchestra dei Popoli, una iniziativa portata avanti da un po' di tempo dalla Casa della Carità di Don Colmegna a Milano, con il Conservatorio di Milano, ragazzi rom, ragazzi stranieri di altre nazionalità e ragazzi italiani insieme in un'orchestra. E noi abbiamo convocato Pietro Boscacci, violinista del Conservatorio di Milano, uno degli artefici animatori di questa iniziativa, di questa orchestra. Pietro, buongiorno. Buongiorno a voi. Prima di tutto, insomma, complimenti, perché esordire, credo che sia l'esordio di questa nuova versione, no, dell'orchestra con Battiato. Sì, sì, proprio martedì sarà la prima, primo debutto. Beh, e quindi, insomma, un bel colpo con Battiato, Sì, diciamo che speriamo che ci faccia bene, che faccia bene anche ai ragazzi, ai ragazzi. Queste personalità A noi, è piaciuto proprio lo spirito di questo progetto, un progetto che va avanti da tempo ma che si è evoluto, nasce dal fatto che, insomma, dalla cultura anche musicale dei ragazzi rom che giravano attorno alla Casa della Carità di Don Colmegna a Milano, questa musicalità poi si è arricchita con voi del conservatorio e anche con altri ragazzi stranieri. Ho riassunto, Pietro, abbastanza bene, com'è questo progetto, come nasce? Sì, praticamente la prima riunione di questo progetto è venuta 2 anni fa, in cui eravamo praticamente solo in 7-8 persone, tra operatori della Casa della Carità e il presidente del conservatorio. Mm-hmm. E niente, poi è nato tutto da lì. Abbiamo parlato brevemente di questi ragazzi che erano incredibili, che suonavano. Perché erano incredibili, Pietro? Ah, suonavano tutto a memoria, quindi non conoscevano la musica. No, conoscevano la musica popolare rumena, quella che si trasmettono per via appunto orale, diciamo. Mm-hmm. E voi vi siete messi in testa di insegnarli a leggere la musica e a diventare dei musicisti, davvero? Sì, infatti abbiamo visto che questa loro straordinaria potenzialità poteva essere integrata con lo studio, con l'applicazione, con diciamo qualcosa avevamo capito che potevamo insegnargli, comunicare attraverso la musica, e quindi da lì è nato tutto. Poi piano piano si è arricchita anche con altri ragazzi di altre nazionalità, quindi adesso questa orchestra è un vero e proprio melting pot. Che musica viene fuori da tutto questo, Pietro? Ci stiamo lavorando, nel senso che praticamente appunto con questo affluire di varie etnie, di varie culture, si è creata anche una musica che le raccoglie un po' tutte insieme, quindi attraverso i nostri mezzi del conservatorio, che sono gli spartiti, quindi la musica classica, musica letta, si è unito l'estro dei talenti rom, il ritmo delle percussioni africane, o il ballo, la danza della musica brasiliana, quindi percussionisti. Cioè, io immagino che viene fuori o un casino totale oppure una cosa straordinaria, come spesso no, alla musica, no? che è frutto di contaminazioni. Sì. Molto, molto esperti che lavorano con noi attraverso il conservatorio, arrangiatori, che permettono che appunto il risultato sia più che insomma, il risultato è importante, poi è importante naturalmente anche lo spirito con cui si fanno queste cose. Una cosa vorrei dire su questo, l'importanza, no, della musica, perché adesso in un periodo di crisi della politica, economica, morale, sembra parlare di un progetto come questo sembra una cosa minore, no? Ma chi se ne importa della musica, della cultura, l'incontro tra i popoli? Però diciamo invece il contrario, che non si può pensare di uscire fuori dal tunnel nel quale siamo solo guardando alle cose materiali o all'aspetto economico. Ci vuole l'importanza di progetti come questo nei ragazzi, Pietro. Sì, infatti quello che io ho notato è che anche la musica, devo dire, si dice sempre la musica unisce tutti, è universale, ma questo in certi momenti non è proprio vero, perché comunque anche noi non siamo abituati ad ascoltare musica di altre culture, oppure a partecipare a feste di altre di persone di altre nazionalità. Invece attraverso questi progetti ci si conosce la musica anche degli altri, si conoscono i segreti, e poi dalla conoscenza arriva il rispetto, l'interesse e poi alla fine anche il piacere di suonare tutti insieme. E allora appuntamento martedì sera dove, Pietro? Possiamo dirlo. Via Conservatorio, alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano, alle 8:30. Va bene, insomma, per i milanesi, ma anche per chi non lo è, fosse interessato in qualche modo, poi i posti non sono tantissimi, però ci abbiamo provato. Grazie Pietro Boscacci, violinista del Conservatorio di Milano. Questa è l'iniziativa L'Orchestra dei Popoli. Si può fare cronache da un paese migliore. Dappertutto c'è crisi. Sacerdoti a lezione per capire la crisi, in 600 ai corsi con i professori della Bocconi. E questo è il titolo scelto dal Corriere della Sera per parlare appunto di questa notizia, cioè corsi di formazione fatti per alcuni sacerdoti milanesi per capire la crisi, che verranno fatti appunto all'Università Bocconi. Evidentemente, insomma, gli strumenti tradizionali per curare le anime come la messa e la preghiera non bastano più e bisogna correre ai ripari in qualche modo. E allora noi abbiamo convocato, parliamo con lui, Monsignor Pier Antonio Tremolada, buongiorno. Buongiorno. Che è, insomma, animatore, credo, di questa iniziativa, adesso ci spiegherà, è vicario episcopale per l'evangelizzazione, i sacramenti e soprattutto per la pastorale universitaria. Quindi, insomma, di rapporti con l'università ne avete magari anche sempre durante l'anno. Come mai, Monsignore, questa iniziativa, corsi di economia per i preti? Credo sia proprio giusto partire da quello che lei ha appena detto. L'iniziativa nasce all'interno di un dialogo con le università, a cui peraltro noi siamo molto interessati e che riteniamo molto prezioso. Il desiderio è comunque poi di promuovere anche altri incontri su altri temi con altre università. Tutto questo è partito da una disponibilità di alcuni docenti dell'Università Bocconi su temi che noi ritenevamo di grande attualità e anche di grande interesse, direi che ci vedevano bisognosi di alcuni approfondimenti. Ecco, ma per esempio che materie poi studieranno questi sacerdoti? Non sono dei corsi veri e propri, diciamo, sono piuttosto sono una serie di conferenze, sono alcuni incontri su tematiche specifiche. Per esempio, il primo, che si è già tenuto, aveva come tema il concetto stesso di economia, il ruolo dell'economia all'interno della vita di un paese, e quali sono le dinamiche, non so, il concetto di PIL, per esempio, oppure la programmazione economica, come a quali criteri si deve ispirare, mentre più avanti parleremo di globalizzazione, di tecnologie e poi dei mercati finanziari, di come operano le banche. Si tratta di capire da parte nostra, aiutati da persone competenti, sì, entrare meglio in tutto questo. Ecco, ma che cos'è che, quale urgenza vi ha mosso, insomma, quali preoccupazioni per cercare di capire, insomma, le domande che vi verranno dai fedeli, le situazioni più difficili? Certamente. La situazione attuale, che è sotto gli occhi di tutti, crediamo che proprio per raggiungere le persone là dove vivono e portare loro quello che è il messaggio del Vangelo, che è strettamente legato al vissuto umano, sia necessario in questo momento in particolare approfondire questo aspetto della situazione economica e della crisi. Ecco, ma perché secondo voi c'è stata anche questa crisi? Per motivi legati, non so, alla finanza internazionale? Tutto è nato dalla crisi dei subprime, poi c'è stata la crisi dei debiti degli stati. Quale messaggio date anche ai fedeli, alle persone, insomma, sui comportamenti che si devono tenere, si possono tenere, sulle colpe che ci sono? Intanto vorremmo essere aiutati da persone che hanno direi elementi anche professionalmente significativi a leggere bene la realtà. Noi siamo convinti, del resto negli incontri sta già emergendo, che ci sia comunque un rapporto molto stretto tra, come dire, economia ed etica, per esempio, che un'economia per essere veramente se stessa ha bisogno di interrogarsi sul versante anche dei principi etici. Questo, per esempio, è un dato che a noi pare molto significativo. Ci ha fatto piacere capire, cioè renderci conto che si tratta di una riflessione che anche ad alti livelli nell'ambito economico-finanziario si sta portando avanti. Non so, per esempio la questione della Tobin Tax, non so se... Per esempio, certo. Quindi andare in questa direzione, cioè di inserire dosi di controllo sociale, di etica, anche di controllo da parte degli stati, immagino, no? Certamente, certamente, ma perché la convivenza ovviamente che deve organizzarsi dal punto di vista anche economico, il dato che sta emergendo, per esempio, di cui noi stiamo prendendo più coscienza, è che ci sono delle regole ovviamente in economia da cui non possiamo prescindere. Cercare il bene comune, realizzarlo in maniera intelligente Questo esige comunque che si sappia che cosa accade quando interviene anche l'aspetto, e deve intervenire l'aspetto economico, quindi la conoscenza di queste regole e di questa organizzazione interna dell'economia permette poi di arrivare a una proposta di vita civile che sia seria, però indubbiamente tutto questo ha bisogno anche di una riflessione a monte di cui peraltro ci si sta rendendo conto anche in ambito economico finanziario. Senta, Monsignor Tremolada, senza trascinarla sul terreno politico, però una delle ricette portate avanti dal Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, si parla molto della decrescita, no? Cioè di arrivare a fare meno acquisti, a spendere magari meno, però a soddisfare in un altro modo i propri bisogni con autoproduzione, cercando di risparmiare, insomma una cosa che secondo alcuni, una ricetta che secondo alcuni potrebbe frenare l'economia, altri invece dicono beh, però migliora la vita dei singoli che sono in difficoltà, che insomma con le spese che superano di gran lunga le entrate, no? nelle famiglie italiane. Lei che ne pensa di questo? Potrebbe essere una soluzione? Io penso che dai testi biblici, in particolare dei Vangeli, emergono dei criteri molto precisi che noi chiamiamo quelli di perequazione, di sobrietà, di condivisione, di attenzione a di equilibrio tra chi ha tanto e chi ha meno. Io penso che si debba andare decisamente in questa linea, se si riuscisse davvero a immaginare anche un progetto politico che, tenendo in alta considerazione il sistema economico, però si lasci ispirare da una regola che fondamentalmente è quella del bene comune, inteso non in senso vago, perché poi ma inteso nel senso di un equilibrio sapiente, intelligente tra ciò che ciascuno è in grado di offrire e di ricevere all'interno di una società, beh, forse riusciremo a costruire qualcosa di serio. E va bene, insomma, intanto grazie per averci raccontato questa vostra iniziativa. Prossima lezione, il titolo? Il titolo è Globalizzazione e tecnologie. E va bene, buon lavoro, buono studio anche per voi. Alla Bocconi, grazie a Monsignor Tremolada per essere stato con noi. Grazie a voi. Io ti posso offrire il pane. Abbiamo parlato con Monsignor Tremolada di decrescita, di ritorno a attenzione maggiore ai bisogni primari. Allora sentite qua, un forno collettivo per la Casetta Rossa di Roma. Siamo alla Garbatella, c'è cioè un centro culturale, la Casetta Rossa, un centro dove succedono varie cose, tra cui anche un forno comunitario. Di che si tratta? Lo chiediamo a Luciano Unmarino. Buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao Luciano, uno degli animatori di questo centro, la Casetta Rossa, credo. Sì. Che ci racconta tra qualche giorno, insomma, io ho letto il 1 maggio partirà questo forno comunitario. Di che si tratta? L'idea di inaugurarlo il 1 maggio è un'idea che ci è venuta in mente l'anno scorso tramite una collaborazione con un collettivo di panificatori che si chiama Pane. Da qualche anno sono attivi alla Casetta Rossa dei laboratori e dei corsi di panificazione solidale, quindi usando prodotti a chilometri zero, dando anche un'infarinatura rispetto alla storia della panificazione. Un'infarinatura in tutti in i generale. Sensi. Sì. E l'idea poi è venuta andando a guardare quello che succedeva tanto tempo fa in tanti paesi, in tanti comuni italiani, ma anche nelle città che oggi sono diventate metropoli, cioè quello dei forni pubblici, dei forni comunitari a disposizione di tutti i cittadini. E come funzionerebbe, funzionerà questo forno nelle vostre intenzioni? A chi si rivolge? Il forno si rivolge a tutti gli abitanti del quartiere, del territorio che già collaborano con noi. E sarà acceso dalla mattina alla sera e ognuno potrà venire e fare il pane o fare altri prodotti. Naturalmente non ci sarà soltanto il forno, continueranno i corsi, continueranno i seminari di panificazione, il ragionamento di tenere uniti due concetti: uno, l'abbassamento del prezzo del pane, certo, in un momento come questo di crisi, e l'altro quello della relazione sociale, della socialità. Credo che un tempo speso a fare il pane con altre persone sia un tempo migliore di quello di andare a prendere. Cioè, volete provare anche a riaccendere delle relazioni, insomma, attorno a cose, riti come questo, no? Che può farci risparmiare qualcosa in termini economici, il che non guasta di questi tempi, e può ridare anche senso, qualità alle ore che si passano nel quartiere. Questo il senso. Complimenti per questa iniziativa, Luciano, l'abbiamo raccontata rapidamente, andiamo di gran carriera, abbiamo una pausa. Voi fate tante cose, no, alla Casetta Rossa, se vuoi ricordare anche qualche altra iniziativa così per i romani, e poi ci salutiamo, Luciano. Certo, c'è una trattoria a chilometri zero con cibo biologico, ci sono laboratori per bambini, presentazioni di libri, concerti. A luglio faremo un'iniziativa di 15 giorni, un festival musicale e culturale, siete tutti invitati. La Casetta Rossa è a Gardatella e vi aspettiamo. Grazie Luciano, grazie. Grazie, buona giornata, buon tutto, buon pane anche alla Gardatella, la Casetta Rossa. Questa è l'iniziativa, partirà il 1° maggio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, ben ritrovati. Intanto vi ricordo anche di venire su Facebook, si può fare trattino Radio 24, cercateci anche su Twitter, si può fare 24. 349-238-6666 per gli SMS. C'è chi commenta l'intervista di Monsignor Tremolada, che parlava di corsi di economia, no? Dei preti a Milano, e consiglia dice, beh, insomma, regole come quelle dello IOR, un po' di ironia, no? Certo, anche la Chiesa deve fare pulizia al suo interno, ciò non toglie che iniziative come quella dei corsi di economia per i preti abbiano un senso, un significato, no? Possano dare una mano. 800-24-00-24, abbiamo Antonella che ci chiama al numero verde. Buongiorno, da Como. Ciao Antonella. Buongiorno, senta, io telefonavo in merito alla domanda che lei ha fatto, sì, sulla regione Lombardia che sta predisponendo questa nuova... Una proposta di legge, sì. Questa nuova proposta, esatto. Io ritengo che sia corretto perché dobbiamo disincentivare un poco, perché non abbiamo più lavoro per noi. I servizi che da noi strapagati vengono utilizzati tutti dagli extracomunitari, perché basta andare negli ospedali, ci sono solo loro. Non riusciamo più a vivere noi nella nostra terra, quindi mi sembra anche giusto che la regione Lombardia prima di tutti tuteli i propri cittadini che hanno pagato fior di soldi di tasse da anni e anni. Ci sono i nostri anziani che hanno pagato centinaia di lire, di vecchie lire, e neanche hanno la pensione, cioè, quindi tutti i congiungimenti, i compagni dei congiungimenti e i miei suoceri non prendono la pensione, mio papà non prende la Antonella, minima, non si arrabbi, però, anni, Antonella, cioè, io Antonella, sono d'accordissimo. Brava, va benissimo, non si arrabbi però perché non serve. No, io dico soltanto questo, se gli immigrati in Lombardia sono il 12% e si dà la possibilità di andare negli alloggi popolari a solo con una quota del 5%, mi sembra una forma di discriminazione, poi possiamo girarla come vogliamo. D'altra parte anche il discorso del lavoro, che ci rubano il lavoro, è un discorso che abbiamo fatto mille volte, può darsi che sia così, può darsi però invece è realtà che ci sono, il concorso per guardia medica a Milano è andato a vuoto, cioè non ci sono abbastanza guardie mediche, non ci sono infermieri, ecco perché sono sempre più gli stranieri che fanno questo lavoro in Italia. Io non lo so perché è così, ma è così. 800-24-00-24, abbiamo anche Gianni da Udine, buongiorno. Buongiorno. Che ci dice Gianni? Niente, volevo fare un chiarimento sul fatto che Bersani e Berlusconi stanno andando da Napolitano. Sì, tra l'altro ci sono un paio di dichiarazioni, le leggo. Zaia della Lega dice sì a Napolitano bis, Vendola dice invece speriamo, ci attendiamo che Napolitano dica di no. Prego, c'è Gianni. Dico anch'io che è meglio che vada in pensione. Che prenda in mano tutto Napolitano. Ah, che prenda in mano un uomo, sì, di quasi 90 anni, però non pensa che sarebbe un segno di implosione del sistema questo qua, che è già imploso, però così sarebbe la consacrazione che non troviamo una persona nuova, un uomo di quasi 90 anni, con tutto il rispetto, mia nonna ne ha 92, però. Le dirò una cosa. Continuiamo a sbranarci? E invece così che facciamo? Diamo tutto sulle spalle di quest'uomo. Io non sono d'accordo. Grazie Gianni, comunque 800 24 00 24, magari tra poco sentiamo qualche altro intervento al numero verde. Adesso invece ci prepariamo ad accogliere il prossimo ospite. Questo terzo giorno di votazioni, l'ipotesi è in corso, ci siamo collegati con le televisioni che stanno seguendo lo scrutinio, la quinta votazione. Lo scenario è quello di ieri: Rodotà 27, Napolitano 2, schede bianche 61, cioè si va verso niente sostanzialmente. Easy Money di Bruce Springsteen, perché in questo caso sono i soldi facili della finanza, ma a noi ci interessava un altro concetto: soldi facili per i vostri progetti, progetti innovativi, start-up, aziende che nascono, che piccole progetti anche che cercano fondi. Ecco che in Italia da un po' di tempo sbarca il crowdfunding, in America già super popolare, e sbarca con questa iniziativa www.eppela.com. Noi abbiamo convocato il suo fondatore Nicola Lencioni. Buongiorno Nicola. Buongiorno a tutti. Allora, non tutti sanno cos'è il crowdfunding, io nemmeno forse lo sapevo fino a ieri, quando ho parlato con te, che abbiamo concordato questa intervista. Che, di cosa si tratta e perché in America ha molto successo? Poi parliamo del tuo progetto. Ok, in America ha molto successo perché ovviamente sono un pochino più avanti a livello tecnologico, e poi il crowdfunding è partito già oltre 4 anni fa. In Italia noi siamo stati i primi a portarlo nel giugno del 2011. Cosa vuol dire crowdfunding? Crowd, folla, funding, capitale, e quindi possibilità di accedere tramite la rete a un nuovo mercato, un mercato che puoi tranquillamente testare mettendo il tuo progetto online. Quindi sulla piattaforma, con pochi e semplici passi, hai la possibilità di registrarti, far vedere il prodotto o il servizio che vuoi offrire, e sarà la rete direttamente a decidere se il tuo progetto vale o meno. Facciamo quindi qualche esempio, no? Certo, ieri mi dicevi che il sito, insomma, è quasi un anno, cioè più di un anno che è partito, sì, in maniera stabile, però è negli ultimi mesi che i progetti stanno aumentando, il traffico sta crescendo, i fondi arrivano. Quali sono, facciamo degli esempi, no? Alcuni dei progetti che trovano fondi. Ci sono stati dei ragazzi che hanno creato una lampada in cartone, che l'hanno chiamata Fattelo, perché ti arriva a casa da montare, è fatto con cartone della pizza, quindi un prodotto riciclabile, e hanno dato la possibilità a chi acquistava sulla piattaforma Apple prima di ovviamente andare in produzione di avere la lampada a un costo molto più basso. La lampada è piaciuta a livello di design, a livello concettuale, e hanno avuto un'risonanza, qualche cosa anche a livello mediatico, su per merito vostro, su radio, su media a 360 gradi, e hanno raggiunto il loro break even, perché quando te metti un progetto sulla piattaforma ovviamente devi offrire, okay, sia il prodotto, ma devi avere anche un tempo, un piano massimo economico, un tempo per raggiungere, sì. Esatto. Loro ce l'hanno fatta in 40 giorni, che è la media che noi diamo sulla piattaforma, con più interazioni con i consumatori, e hanno fatto nascere una piccola azienda. Ora stanno facendo altri prodotti, quindi è la chiave per uscire un po' dal sistema che è completamente bloccato. Cioè, pensate, uno parte da zero, ha un'idea, insomma, prima che ci fosse questa iniziativa. Altri modi per trovare fondi ci sono, naturalmente, anche col passaparola o chiedendo ad amici o andando in banca, però sappiamo quanto di questi tempi le banche, insomma, di qualche giorno fa l'ultimo allarme di Confindustria di nuovo sul credit crunch, no? E quindi benedetta un'iniziativa come questa. Altri casi, altri esempi che possiamo raccontare, un altro? Ma l'esempio che si collega perfettamente a quello che hai detto, con un sistema appunto che purtroppo non ti prende in considerazione per evitare ovviamente il rischio, perché poi bisogna sottolineare che mentre quando si fa impresa oggi si va a costruire capannoni, macchinari, dipendenti e quant'altro, quindi si investono delle risorse, quindi ci si indebita, col crowdfunding si fa soltanto il mock-up del prodotto, si presenta, se funziona, si raccolgono gli ordini, si raggiunge il break-even, si va in produzione, si costruisce l'azienda. Nel caso contrario, ognuno torna a casa e si rimette a studiare come mai il progetto non ha funzionato. Quindi questa è la cosa fondamentale che cambia e rovescia completamente il sistema. Quindi si testano i prodotti. Un altro caso che ha funzionato molto bene e che ha portato un altro gruppo di giovani a creare un'azienda è stato Trail Me Up. I ragazzi hanno creato uno zaino con un geolocalizzatore, loro appassionati di montagna. Questo zaino fa le foto mentre loro passeggiano in montagna, quindi i percorsi, un po' come fa Google con Google Maps, con la macchina fotografica, con le macchine che girano nel nostro paese, no? Rilevano il territorio. Certo. Hanno raccolto oltre 5.000 euro sulla piattaforma e hanno potuto fare il primo zaino, hanno collegato il tutto a un sito internet, hanno avuto risonanza anche a livello mediatico, nell'arco di 15 giorni sono stati contattati da istituzioni e aziende private, hanno raccolto oltre 250.000 euro. Pensa e un po'. Siete anche creato azienda. Esatto, siete anche un trampolino, no? Perché è chiaro che in questo modo proprio la vostra mission è quella di raccogliere piccoli fondi, non 50-100.000 euro necessari per far partire grossi progetti, ma per smuovere una situazione da zero a il primo passo. Poi naturalmente si devono mettere in moto anche altre leve, è ovvio, altrimenti non è che si può fare tutto con il crowdfunding. Due cose le vorrei dire. Intanto, perché chiarezza, voi cosa ci guadagnate? Noi abbiamo il 5% solo e soltanto quando il progetto raggiunge il break-even. Cioè, se te chiedi 10.000 euro e raggiungi 10.000 euro, noi addebitiamo il 5% al progetto di questa cifra. E poi nel caso non si raggiunga l'obiettivo, ovviamente non c'è nessun costo addebitato. E poi sul nome, no? Perché uno potrebbe dire Eppela, che vuol dire? Io devo dire che il nome l'avete azzeccato, Nicola. Vabbè, è bella perché io ho una bambina piccola e all'inizio quando cominciava a camminare inciampava e quindi in Toscana si dice invece che Oppela si dice Eppela, quindi dai la mano a qualcuno a fare un salto e a sollevarsi e saltare un ostacolo, ecco questo fondamentalmente. Quindi insomma, una volta capito questa idea, cioè capite che poi il nome vi resta in testa. E, un'ultima cosa, i progetti li filtrate in qualche modo oppure c'è massima apertura? Allora, non entriamo nel merito dell'idea perché non vogliamo essere così selettivi. Il minimo qualcosa come 6-7.000 progetti anche nell'ultimo anno ricevuti, quindi cioè, cifre importanti, si vede che nel nostro paese comunque c'è volontà di riscatto, quindi c'è veramente una crescita molto forte. La selezione che facciamo è più sulla parte poi economica, quindi se veramente i soldi richiesti ti danno la possibilità di fare il primo passo reale verso la costruzione del tuo prodotto e del tuo servizio. Quindi se ci sono cifre a livello economico che non stanno in piedi, chiedi 5.000 euro, come ti accennavo, no? Per fare una produzione cinematografica in cima all'Everest, forse c'è qualcosa che non funziona. Esatto. Quindi vi limitate a questo tipo di controllo, di serietà del piano economico che viene. Poi il concetto, l'idea, quello lasciate che sia la gente a valutare in questi 40 giorni e poi si vedrà, chi vivrà vedrà. Esatto, io penso che ci sia veramente una svolta e mi ricollego col vostro programma radiofonico, cioè penso che si possa realmente fare qualche cosa nel paese. Questa è una via di fuga contro le istituzioni, anzi le istituzioni secondo me dovrebbero dare una mano a portali come Eppela a supportare e a comunicare i progetti creativi in maniera meritocratica dal basso, che hanno la possibilità di dimostrare quello che possono fare. E noi con questo appello chiudiamo e salutiamo Nicola Lencioni, fondatore di Eppela.com. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Buon lavoro e buona giornata. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in diretta. Mi raccomando, veniteci a trovare su Facebook, si può fare Radio 24, su Twitter si può fare 24 e poi durante la settimana potete lasciare i vostri messaggi in segreteria telefonica alla ricetta per salvare l'Italia in un minuto 828 12 12. Andiamo Valeria un attimo alla camera. Bianca. Dove Laura Marini. Boldrini sta continuando lo scrutinio. Bianca Marini. Bianca. E come capite, Rodotà. In vantaggio c'è la scheda bianca. Rodotà che ha circa la metà dei voti della scheda bianca. Quindi si va verso un nulla di fatto. Avete sentito il progetto Eppela, il sito eppela.com, che aiuta con il crowdfunding a finanziare progetti innovativi. Adesso di un progetto innovativo parliamo, un po' diverso. Questo nasce all'interno dell'Università di Pisa. Una t-shirt intelligente, tanto intelligente che ti misura praticamente tutto, te la metti addosso e insomma è in grado quasi anche di curarti. Non è uno scherzo, è un'iniziativa, è un progetto europeo coordinato dal centro di ricerca Piaggio dell'Università di Pisa. Una t-shirt integrata con sensori ed elettrodi per monitorare lo stato emotivo di pazienti psichiatrici. Salutiamo Enzo Pasquale Scilingo, professore di bioingegneria dell'Università di Pisa. Buongiorno. Buongiorno. Enzo Pasquale, come ti dobbiamo chiamare? È lo stesso. Diciamo, mi chiamano quasi tutti Pasquale. Pasquale. Però, sì. È un progetto veramente innovativo, interessante. Cosa può fare questa maglietta che tra l'altro avete già prodotto, no? Poi ci saranno altri step in questo progetto. Cosa fa per migliorare la vita di queste persone? Diciamo, la maglietta è una maglietta che, come dicevo, è proprio realmente totalmente realizzata in tessuto, ha degli elettrodi e dei sensori integrati nel substrato tessile, è in grado di acquisire segnali fisiologici come l'elettrocardiogramma e il respiro. L'idea è di utilizzarla appunto in un campo applicativo che è quello del monitoraggio di pazienti che soffrono di disturbi bipolari, ed è quello di fornire allo psichiatra, diciamo, dei valori oggettivi, cioè capire se esiste una correlazione tra i pattern di segnali fisiologici che acquisiamo con la maglietta e lo stato clinico del paziente. Quante persone stanno già sperimentando, credo, in tre centri, no? A Pisa, Strasburgo, esatto, e a Ginevra, questa maglietta? Il progetto, diciamo, che è arrivato alla sua fase finale di validazione clinica. Abbiamo tre centri, a Pisa, a Strasburgo e Ginevra. Abbiamo 8 pazienti a Strasburgo che verranno seguiti, ogni paziente verrà seguito per 14 settimane. 8 pazienti a Ginevra e 10 pazienti a Pisa. Diciamo che ogni paziente viene chiesto di indossare la maglietta 2 volte alla settimana. Questa maglietta la indossa, diciamo, un paio d'ore prima di andare a letto e poi continua a tenerla durante la notte, quindi la maglietta continua a registrare anche tutti, parametri, tutte le cose che cambiano. Esatto. Immagino che ci sarebbero tante cose a raccontare su un progetto così lungo, così importante per chi ci lavora, però mi viene subito a fare invece un'altra domanda, andando in avanti, no? Pasquale, quali potrebbero essere gli sviluppi di questa innovazione, di questa maglietta, di questa t-shirt, non so, che ti dà direttamente le medicine una volta che ha capito in che stato sei? Come potrebbe evolvere questo progetto? Diciamo che la maglietta si può interfacciare attraverso canali di comunicazione con uno smartphone che può essere in comunicazione con un centro remoto, e quindi diciamo che questo permette una connessione tra il paziente e il medico molto stretta. Quindi diciamo l'idea potrebbe essere tutti i parametri vengono acquisiti, mandati ad un centro remoto, il medico, lo psichiatra o in maniera più generalizzata anche qualunque altro tipo di medico, perché la maglietta potrebbe essere applicata anche in altri campi medici, clinici, potrebbe vedere i parametri del paziente come se l'avesse nel proprio studio. Quindi diciamo è un monitoraggio remoto, potrebbe essere utilizzato all'interno di un contesto di monitoraggio remoto. E questo poi, se all'interno di questa dove vengono raccolti i dati, possono far girare algoritmi particolari. Oddio, gli algoritmi, però dobbiamo salutarci. Io devo fermarmi qua. Grazie Pasquale Scilingo, professore di bioingegneria all'Università di Pisa. È tutto per oggi. Grazie a Giorgio De Luca, Franco Piantanida, Andrea Piana e Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani a mezzogiorno. Si può fare. Cronache da un paese migliore.